Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quark. Ben ritrovate e ben ritrovati su Radio Quark e siete all'ascolto della quinta puntata della serie di approfondimenti Il nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. Con me, come sempre, c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Nella puntata di oggi avremo come ospite Anna Curcio, che è sociologa di formazione, studia i conflitti e le trasformazioni del lavoro in relazione a razza e genere. È coordinatrice del percorso di formazione politica Input di pensiero critico a Bologna, cura per Derive a Prodi la sezione Vortex di Machina e dirige la collana Hic sunt leones. Tra le sue pubblicazioni La razza al lavoro, Comune, comunità, comunismo, Genere e capitale, Introduzione ai femminismi, e il suo ultimo libro è L'Italia è un paese razzista. Ringrazio Anna per essere qui con noi e la saluto. Ciao Anna. Ciao Salvatore, grazie a voi, grazie a Radio Quar per questo invito e un saluto a chi ci ascolta. Come stai innanzitutto? Sto bene, complessivamente bene. Voi come va? Bene, bene, bene, diciamo, Abbastanza. un po' presi da questa serie. Comunque, diciamo, partiamo con la prima domanda. Ovvero proprio dall'uso del termine razza, di come è stato usato nella propaganda nei vari regimi fascisti che hanno attraversato il Novecento e di come viene invece usato oggi non solo dalle formazioni più radicali d'estrema destra, ma anche da esponenti governativi. Allora, io vorrei, visto che mi avete preannunciato che voi proverete a mettermi in difficoltà, adesso io provo a spostare lo spazio del ragionamento, perché io credo che associare il concetto di razza esclusivamente a quello di fascismo sia un'operazione non del tutto opportuna, perché il concetto di razza, come la storia ci mostra, è un concetto che attraversa in modo trasversale, si articola dentro lo sviluppo del capitalismo, potremmo dire sin dalle origini del capitalismo, sin dentro i processi di accumulazione. Quindi credo che sia più opportuno, magari anche assumendo uno sguardo che guarda al concetto di razza dentro, le ideologie fasciste, ma assumere la razza come qualcosa, come un elemento proprio costitutivo delle società in cui viviamo. Quindi non meramente una questione di natura ideologica, ma una categoria sociale. Ovviamente non stiamo parlando della razza in senso biologico, che è il razzismo scientifico, aveva porto su un piatto d'argento al fascismo, dei fascismi del ventennio. Stiamo parlando di un concetto di razza che, come dire, è null'altro che una categoria sociale utile proprio a organizzare il mondo in cui viviamo. Ecco, quindi direi che per prima cosa, sfatiamo questo mito. La razza fa parte dei processi del fascismo, delle esperienze fasciste, ma non solo. Volevo capire se vi interessava, diciamo, fatta questa premessa adesso, volevo capire se vi interessava provare a fare un ragionamento su quello che è l'esperienza del fascismo, l'esperienza della razza e del razzismo nel ventennio, in Italia o comunque negli anni 20 del Novecento in Europa, e il ruolo che il concetto che la categoria di razza, la categoria sociale di razza e dunque il razzismo ha in questo presente, che è un presente che ha degli elementi che riconducono al fascismo, che non so fino a che punto possiamo individuare come in continuità con quel fascismo, col fascismo appunto che abbiamo conosciuto nel ventennio, ma che insomma fa venire fuori una serie di come dire, comportamenti anche esasperati delle destre che sono arrivate al potere in Europa, in Italia, nel mondo più complessivamente nel mondo occidentale, e che quindi ci portano a fare delle analogie, però anche attenzione nel fare queste analogie, perché ci sono tante cose che sono differenti e soprattutto c'è questa costante. La questione del razzismo è una costante che attraversa la storia, la nostra storia occidentale dal XVI-XVII secolo fino ad oggi, e che ha attraversato anche i fascismi, ma non solo. No, no, ragionavo su quello che dicevi. Il nostro era proprio l'intento di quello di capire oggi come usano questo termine, che può essere razza, che può essere qualsiasi altro termine, non facendo un parallelo col ventennio, ma proprio i nuovi strumenti, le nuove modi di comunicazione che usa la destra in questo periodo storico. Allora, io diciamo, se noi assumiamo... Quindi il termine di razzismo, come viene usato nella propaganda il razzismo dalla nuova destra? Ma allora, la nuova destra non, come dire... Nuova destra intendo, diciamo, questi processi che ci stanno attraversando in questo periodo. Cioè da Trump oppure a Salvini, da 10 anni, da 10-15 anni a questa parte, diciamo. Ma allora, io dunque mi piace leggere un rapporto intrinseco tra razzismo e capitalismo che assume articolazioni specifiche dentro le varie fasi della transizione capitalistica, della crisi. Noi in questa situazione di capitalismo in crisi, il capitalismo delle crisi, non un capitalismo che sta attraversando diverse crisi che sono ormai crisi strutturali, il concetto di razza, quindi la possibilità di declinare su una base razzista differenti opportunità, accesso al lavoro, accesso ai diritti, no? Dentro la società rispetto al contesto sociale, ecco, se noi leggiamo dentro la transizione, come il razzismo cambia al cambiare delle dinamiche del capitalismo e quindi adesso nella crisi, possiamo parlare di una particolare declinazione del razzismo che accompagna gli ultimi 30-40 anni come risposta al grande conflitto sociale che negli anni 60 e 70 aveva attraversato sul piano anche geopolitico le nostre società, no? Nei paesi occidentali c'erano state la rivolta degli studenti, le trasformazioni introdotte dal femminismo, le lotte operaie che avevano ridefinito anche i rapporti di forza tra capitale e lavoro, c'erano stati i processi di decolonizzazione, le lotte anticoloniali, una grande diaspora che aveva portato all'interno del contesto del cuore pulsante del capitalismo occidentale nei grandi paesi europei, le contraddizioni coloniali, la grande diaspora che aveva seguito i processi di colonizzazione e aveva interessato soprattutto la Francia e la Gran Bretagna. Ecco, questa nuova situazione ha introdotto una nuova declinazione del razzismo, una declinazione del razzismo di cui oggi possiamo individuare alcune specifiche dinamiche. Ed è un razzismo che è come dicono Angela Davis e George Jackson, analizzando l'esperienza che loro fanno dentro il sistema carcerario statunitense negli anni 60 e 70, quindi dentro una democrazia liberale, non in uno stato fascista, ma di una modalità di vivere il razzismo che è molto simile a quella che era stata dell'esperienza che magari era stata nei contesti in Italia, in Germania, all'inizio del Novecento. Ed è interessante perché per esempio Angela Davis si confronta con Marcuse, che analizza, Marcuse è insegnante, il professore di Angela Davis, Marcuse studia l'esperienza del nazismo in Germania e Angela Davis riesce a tradurre attraverso le categorie di analisi, attraverso questa impostazione, diciamo anche teorica, data dal rapporto con Marcuse, riesce a individuare caratteristiche simili. Quindi, insomma, questo per dire che se noi guardiamo a come oggi le destre mettono al lavoro il razzismo, dobbiamo tornare indietro nell'arco degli ultimi 50 anni, cioè di quando il razzismo è diventato un po' un elemento di sostegno del capitalismo neoliberale, quel capitalismo che oggi è in crisi e che dunque dà delle colpi di coda anche rispetto alle dinamiche razziali. Il discorso, sentire i rappresentanti di questo governo nelle uscite che hanno attraverso gli organi di informazione, devo dire, i linguaggi sembrano analoghi, no? Il discorso della sostituzione etnica che i nostri ministri, di cui i nostri ministri ogni tanto parlano, richiamano moltissimi dei discorsi del ventennio, però oggi non si parla di razza inferiore, o comunque non è, l'inferiorità non è costruita sul piano biologico, sul piano antropologico, ma è tutta culturale, quindi sono, come dire, nell'arco di questi 50 anni, 60 anni in cui appunto il razzismo biologico era stato smontato come dispositivo ideologico e culturale, si è definito una nuova forma di razzismo, che è un razzismo culturale che si fonda sulla necessità di continuare a mantenere le gerarchie della razza a sostegno dello sviluppo della riproduzione del mondo in cui viviamo. Forse l'ho fatto un po' complicata, però insomma era questo più o meno che quello che volevo dire. Senti, invece tu nel libro parli di capitalismo razziale. Quanto oggi invece i nuovi fascisti vanno a braccetto con questo tipo di, con il capitalismo? Ma sì, forse se adesso io non mi intendo, non, come dire, non ho approfondito, non ho una conoscenza approfondita dal punto di vista storico del fenomeno del fascismo e del nazismo, ma come dire, il fascismo si è storicamente è stato, come dire, si è fatto storicamente forza attraverso il grande capitale. Continua ad essere, diciamo, lo vediamo anche rispetto alle politiche un po' schizofreniche del governo, che non riesce a cioè quello che voglio dire è che quando il fascismo storicamente e le nuove destre, perché ecco, appunto, parlare oggi di fascismo non credo che possiamo utilizzare quella stessa categoria, se non certo. Complicando la cosa, quindi preferisco parlare di destre o di nuove destre. Le destre o le nuove destre oggi fanno l'uso che storicamente dentro i rapporti capitalistici si è fatto della razza e del razzismo, né più né meno. Ecco, quello che io penso è che, e lo abbiamo visto, perché se guardiamo agli Stati Uniti, Trump passa per, senza nulla togliere alle critiche doverose che vanno fatte a Trump, però Trump passa come il cattivone che ha costruito il muro tra Messico e Stati Uniti e ha creato i centri di deportazione dove i bambini venivano separati dai genitori, ma politiche analoghe e soprattutto i primi provvedimenti a sostegno della fortificazione del muro sono stati di Barack Obama, che negli Stati Uniti ha prodotto l'idea di un'America post-razziale, quindi il primo presidente al capo della Casa Bianca ha attuato delle politiche razziste quantomeno al pari di quelle di Trump. Se noi andiamo a vedere cosa ha fatto Sudiak, anche lui un suddito della corona che arriva a Downing Street al capo del governo statunitense, della Gran Bretagna attua delle politiche che sono politiche fortemente razziste. Ecco, quindi non vedo, anche dal punto di vista del linguaggio, c'è una enorme violenza razzista anche nelle rappresentazioni, meno spudorata, meno sfacciata, ma comunque presente, forse più problematica perché subdola, nei discorsi che fa la sinistra e nei discorsi che fanno le destre. Perché quando giornalisti di sinistra ti parlano del safari, quando vengono ammazzate delle persone di origine africana, secondo me c'è un problema proprio di rappresentazioni e di immaginari che ci portiamo dietro, che sono immaginari razzisti e che prescindono assolutamente la collocazione politica. Ecco, io credo che la questione del razzismo, della razza e del razzismo vadano prese più complessivamente come elementi strutturali, elementi sistemici della realtà in cui viviamo, quindi una categoria sociale che si mette al servizio della destra e della sinistra, che assume declinazioni specifiche e differenti, ma sempre a sostegno di rapporti di potere che strutturano in un certo modo la nostra realtà. Allora, Anna, uno dei problemi principali delle campagne elettorali un po' in tutto il mondo è sempre il tema dell'immigrazione. Dove hanno vinto, diciamo, partiti conservatori o di destra, si producono leggi interne alla fine che hanno sì una base razzista, ma che poi sfociano in una repressione generalizzata, che sono proprio atti a colpire un pezzo di società contraria. Questa è la nuova strategia che adotta la destra governativa? Allora, no, anche questa non è una nuova strategia, quella di creare una classe criminale non è una strategia assolutamente esclusiva delle destre, ma è una strategia che anche le politiche liberali e neoliberali hanno saputo declinare. È chiaro che creare la classe pericolosa, creare il criminale, no? Costruire la criminalizzazione di alcune componenti della società e in particolare delle persone migranti è una strategia che le destre cavalcano, ma anche qui non è qualcosa che soltanto che specifica delle destre. Vorrei ricordarvi che Beh, ce ne sono state tante di Napolitano, esatto. Non per dirne una, non abbiamo soltanto la Bossi-Fini, no, ma abbiamo sappiamo... la Napolitano, quindi bipartisan, mi pare che ma anche quella di Pinniti, un'esigenza proprio un'esigenza bipartisan di controllo delle migrazioni, di criminalizzazione e costruzione razzializzata del soggetto migrante, perché poi ecco nei processi migratori gli aspetti normativi, la definizione dei confini nazionali sono tutti elementi che funzionano come filtro che in qualche modo deprivano la persona migrante di alcuni requisiti della sua personalità, di alcuni diritti, per cui arrivano le persone migranti che arrivano in Italia si trovano in una situazione di costante ricatto, quindi costretti a accettare anche situazioni non adeguate a quelle che erano le loro aspettative. Utilizzare un titolo di studio in Italia, un titolo di studio anche universitario, da persona migrante, se non dentro specifici canali, che sono i canali di reclutamento che la legge Biagi, siamo ancora a sinistra, ha introdotto dentro nel nostro sistema normativo, cioè, come dire, ci sono delle norme per cui i titoli di studio non li puoi spendere qui, quindi poi sei destinata a fare lavori comunque dequalificati e dunque poco retribuiti e dunque privi di garanzie e dunque con contrasti capestro che ancora una volta un governo di sinistra, quello di Renzi Poletti, ci ha regalato la migliore legge sul lavoro che un governo potesse produrre, che ha comunque come dire, fatto carta straccia dello statuto dei lavoratori, che era stato così conquistato con quel processo, no? Come se noi assumiamo lo statuto dei lavoratori e il Jobs Act, vediamo proprio come tutte quelle conquiste che avevano richiesto anche una riorganizzazione dei rapporti razziali dentro lo scenario occidentale, si è consumato nell'arco di 50 anni e appunto oggi qualunque colore tu abbia. Quindi sì, sicuramente le categorie sociali, costruire la marginalità vuol dire anche costruire la possibilità di dequalificare il lavoro, di restringere i diritti, è chiaro, ma è una strategia che è tanto le destre quanto le sinistre. Ecco, forse il problema è che queste destre sono molto aggressive, queste destre sono sguaiate nei linguaggi, queste destre parlano ad una pancia alla pancia di una popolazione affamata, impoverita e deprivata dalle proprie aspettative. Cioè l'Italia è un paese che non cresce da 50 anni, c'è un'esasperazione, ecco. E allora queste sono le cose, secondo me, a cui prestare oggi attenzione soprattutto. No, tu hai sorvolato sulla Minniti, tutto dire. Sulla legge di Minniti. La legge guarda, mi è passata di mente, ma insomma, appunto, aggiungiamo un altro pezzo. Ecco, non... Ma anche perché se la rivendica con orgoglio, quindi... Ma sì, ma dovremmo anche dire che cos'è la sinistra in questo paese, ma insomma, ma in tutti i casi le destre la cavalcano. Qual è la differenza? Che le destre... assumono un atteggiamento spudoratamente razzista, le sinistre assumono un atteggiamento velatamente razzista. Però fa sempre parte dello stesso razzismo. Almeno il razzismo delle destre è svelato, è più esplicito, e questa cosa ha dei pro e dei contro. Ha sicuramente il pro, che lo vediamo e ci incazziamo di questa cosa, però anche il pro, che raccoglie dei consensi. Il razzismo velato raccoglie consensi appunto nella pancia di una popolazione che è stata deprivata dal proprio futuro, da come immaginare un'altra condizione di vita. Ma il razzismo camuffato, velato delle sinistre resta comunque un problema strutturale, come dire, di sistema complessivo. Quindi è solo una facciata di linguaggio, una questione di linguaggio. È una questione, secondo me sì, le destre cavalcano il discorso razzista perché gli fa raccogliere voti, perché arriva alla pancia di chi è insofferente in questa società, la sinistra non parla mai di razzismo ma assume pratiche politiche e comportamenti e produce situazioni che sono razziste, perché producono gerarchie, perché producono sfruttamento, perché... creano appunto differenze, cavalcano le stesse differenze, uno in modo esplicito e uno in modo più silenzioso ma non meno grave. E questa cosa bisogna dirla, perché sì, appunto, è vero, c'è il rischio che le destre raccolgano, anzi no, c'è il rischio, è chiaro che le destre raccolgono consensi su questo discorso razzista. Ma bisogna anche, come dire, spingere la sinistra ad assumere un altro comportamento, e questa è come dire, responsabilità dei movimenti politici antirazzisti. Per esempio, in Francia quel processo politico che ha costruito una rete di relazione tra la sinistra radicale di Mélenchon con parti della grande conflittualità che aveva attraversato i gilet gialli, le proteste contro la riforma delle pensioni e l'antirazzismo politico del Partito dell'Indigene e della Repubblica, ha creato un nuovo discorso antirazzista a sinistra. Cosa che in Italia è ancora difficile da immaginare, ecco. No, ma infatti hai anticipato la domanda che volevamo farti, perché c'è lo spazio per la costruzione di un soggetto, di più soggetti partano da una base antifascista e antirazzista che sia anche anticapitalista. Ma allora, appunto, dopo tutto questo discorso che ho fatto, è chiaro che essere antirazzisti e essere antifascisti non può non essere anche anticapitalisti. Io penso che per combattere il razzismo bisogna innanzitutto combattere le gerarchie dentro i rapporti di produzione e riproduzione, dentro i rapporti sociali che il razzismo produce. E anche il fascismo che si nutre di quelle stesse dinamiche non può essere combattuto in modo, come dire, senza mettere a critica, senza una critica radicale e profonda ai rapporti di produzione capitalistici. E quindi credo che le cose sono inscindibili, come dire, non si possono slegare, ecco. Non riesco a immaginarlo diversamente, assolutamente. Se no, altrimenti la lotta antirazzista diventa una lotta identitaria. Però non è una lotta che punta a smantellare le gerarchie della razza, è una lotta identitaria che vuole raggiungere una posizione migliore, ma all'interno di una gerarchia che rimane quella lì, e poco ci interessa, poco mi interessa assolutamente. Allora, come abbiamo detto, nel tuo libro affronti anche il problema del razzismo dal punto di vista economico e dello sviluppo capitalista. Quindi tu scrivi di una frattura economica tra Nord Europa e quella del Sud che si è formata già anni fa con i cosiddetti PIGS. Questo concetto però di Nord Europa verso Sud Europa si può trasferire sia se vogliamo fare una divisione del mondo oppure anche a livello di ogni singolo Stato-nazione. In Italia c'è ancora questo razzismo economico antimeridionale? Ma allora, non lo so, la legge per l'autonomia differenziata? Allora, l'Italia, se noi guardiamo la storia dell'Italia a partire dal secondo dopoguerra, è possibile individuare una dinamica di sviluppo che ha seguito due traiettorie differenti, ma una necessaria all'altra, ma strettamente legate, di uno sviluppo duale si è parlato. Luciano Ferrari Bravo ha scritto un saggio alla fine degli anni 70 in cui leggeva le dinamiche e la riorganizzazione produttiva dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia, e parlava proprio di uno sviluppo duale, la necessità di definire un'area di sottosviluppo che non era un'area, diciamo, una condizione transitoria, un sottosviluppo da superare, quindi un non ancora dello sviluppo, ma era una condizione necessaria allo sviluppo di un'altra porzione di territorio. Questa è una dinamica che, appunto, anche qui lo sviluppo capitalistico mette al lavoro o in modo sistematico dentro contesti anche, no, anche molto, molto differenti. Questa dinamica in Italia, se noi guardiamo la storia dello sviluppo produttivo dell'Italia a partire dagli anni 50, no, con l'arrivo del piano Marshall, alla crisi, no, poi del fordismo alla fine degli anni 70, nei primi anni 80, questa cosa viene fuori in modo evidente. Le migrazioni interne, che sono quelle che poi alimentano quello che noi conosciamo come razzismo meridionale, sono spinte da una serie di leggi che, appunto, rendono problematica rendono, diciamo, è un eufemismo, che non facilitano, diciamo così, la riforma agraria, e che quindi lasciano le campagne del sud in una situazione molto molto molto difficile, e producono una grandissima migrazione interna. Anche lì, quando oltre 2 milioni di uomini e donne si spostano dal sud al nord d'Italia nel giro di un paio di decenni, non è che chi vive al nord sono delle brutte persone. Non che accolgono quindi male i meridionali. I lavoratori del sud erano quella nuova figura del lavoro che serviva alla ristrutturazione produttiva, mentre si affermava un tipo di economia produttiva che faceva sempre più riferimento alla catena di montaggio e quindi non aveva bisogno dell'operaio specializzato che aveva fino a quel momento lavorato all'interno della produzione industriale, questi giovani donne e uomini che arrivano dal sud senza saper nulla del lavoro che andavano a fare, del contesto urbano e sociale che andavano a vivere, come dire, I vecchi operai li guardano male e assumono quella, cioè, come dire, tirano fuori un discorso delle pratiche razziste, perché sono realmente in competizione. I giovani lavoratori del sud hanno calciato via dal sistema di produzione i vecchi operai industriali settentrionali. Cambiava il sistema di produzione, la figura del vecchio operaio specializzato che aveva fino a quel momento portato avanti la produzione industriale in Italia non era più necessaria, era diventata una figura obsoleta, e il razzismo gestisce il ricambio di forza lavoro dentro la trasformazione produttiva, perché razzializzati, come diciamo quando mettiamo al lavoro dentro l'organizzazione della società la categoria di razza, perché i lavoratori del sud razzializzati erano ricattabili al punto che la riorganizzazione del lavoro si è potuta dare in modo più liscio, più lineare, e tant'è che quando quei lavoratori, dopo essersi ambientati, aver capito la situazione e fatti i conti con condizioni di sfruttamento davvero, davvero pesanti, si sono incazzati, tutto il sistema ha cominciato ad avere delle difficoltà. Non è un caso che la crisi del fordismo no, accompagni o segua la grande rottura sociale della fine degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70. Secondo te perché si è voluta creare questa, diciamo, frattura insanabile tra nord e sud, che ancora oggi, secondo me, con molta forza si riflette nel sud Italia, ma possiamo anche parlare con i vari sud del mondo poi alla fine, no? Certo, perché è necessario, in un'ottica di sviluppo capitalistico che si fonda su un modello duale, in cui lo sviluppo vive e si nutre del sottosviluppo di altri territori, è chiaro che sono dinamiche, un'area di sottosviluppo, un po' come appunto, se noi andiamo a vedere su una scala più grande, il ruolo dell'America Latina rispetto agli Stati Uniti, e quindi una condizione, senza fare delle generalizzazioni lineari che non sarebbero opportune, però è chiaro che è la necessità di un'area se parliamo dello sviluppo capitalistico. È necessario quindi che mantenere un'area di sottosviluppo per favorire lo sviluppo di un'altra area. Per fare questo, per rendere possibile l'esistenza di un'area di sottosviluppo che rimane tale, che rimane sottosviluppo, quindi appunto, come dicevo, non il non ancora dello sviluppo, ma una condizione di sottosviluppo strutturale, è necessario mettere al lavoro il razzismo, è necessario mettere, o quantomeno il razzismo, i processi di razzializzazione sono funzionali a mantenere questa condizione strutturale di sottosviluppo di alcune aree, quindi la razzializzazione di alcune figure sociali diventa necessaria alla riproduzione della stessa idea del capitalismo. Allora, la razzializzazione del Mezzogiorno d'Italia e più complessivamente dei paesi del Mediterraneo fonda la stessa idea di modernità europea. Quando i rampolli delle famiglie importanti europee decidevano di conoscere il mondo, e facevano, come dire, partivano per i Grand Tour, avevano poi il racconto che loro facevano di alcune aree dell'Europa mediterranea, riproduceva un'idea anche funzionale, riproduceva un'idea di alterità, se vogliamo, anche funzionale alla costruzione dell'identità europea occidentale. Il fatto che a partire già dal XVII-XVIII secolo fosse conosciuta l'espressione che riconduceva Napoli ad un paradiso abitato da diavoli, e l'idea che i diavoli siano sempre stati nella narrazione della modernità l'altro del capitalismo, ciò che impedisce, no? Pensiamo alla caccia alle streghe, pensiamo ai racconti degli ammutinamenti lungo la tratta atlantica o delle lotte anche portate avanti dai pirati. I pirati nell'Atlantico erano dei diavoli, le streghe copulavano con il diavolo, quindi tutto ciò che era un punto di poteva costituire un punto d'attrito con la narrazione della modernità, che era una modernità capitalistica bianca, civilizzazionale, che puntava qui, cioè imporre, diffondere una certa specifica civiltà, all'altro era sempre il diavolo. Ecco, questa idea di Napoli, che poi riproduce un'idea del Mezzogiorno d'Italia, in qualche modo anche dei paesi dell'Europa mediterranea, di un paradiso, luoghi bellissimi dal punto di vista paesaggistico, ma abitati da gente, da diavoli, cioè dall'altro del capitalismo. Così si costruisce la stessa identità della modernità. In qualche modo l'altro del diavolo che abita Napoli è il lavoratore parco di cui Max Weber ci parla quando descrive l'etica protestante come fondamento dello spirito del capitalismo. Qualche anno fa, quando nel 2011 è scoppiata anche in Europa la grande crisi finanziaria che arrivava dagli Stati Uniti, si è subito ricorso all'idea, i paesi frugali, quelli del nord Europa, capaci di gestire con parsimonia le proprie fortune, e poi i pigs, in una rappresentazione anche molto violenta di maiali con le bandiere dei paesi, che avevano sul dorso le bandiere dei paesi appunto dell'Europa mediterranea, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, appunto, la Grecia che peraltro è stata costretta a sottoscrivere un programma di austerity di una violenza pazzesca proprio dentro questa rappresentazione, per garantire lo sviluppo, quindi la necessità di mantenere il sottosviluppo quando è scoppiata la crisi del 2011 c'è stata la necessità di definire un'area di sottosviluppo, il mezzogiorno razzializzato, perché pigs, perché i porci incapaci, pigri di saper di gestire le proprie economie, per garantire lo sviluppo, la tenuta quantomeno economica delle economie invece frugali, di quelle che invece hanno un'etica del lavoro più precisa, più specifica. Ecco, io credo che sia un po' questa la dinamica, giocando su scale differenti, ma la dinamica è sempre la stessa, la necessità di costruire un altro luogo, un altro territorio, un altro soggetto, un'altra figura del lavoro che in qualche modo permette la riproduzione del modello. Invece, che funzione assume proprio la politica razzista quando è guidato, quando ci sono dei governi autoritari nella crisi capitalistica? Cioè, come usano il razzismo in questi governi, in questa crisi? Come dicevo prima, lo usano per arrivare alla pancia della gente, lo usano in un modo esplicito, in un modo anche spacciato, per appunto raccogliere i consensi tra chi vive sulla propria pelle una condizione di crisi che va avanti ormai da alcuni decenni. E come dicevo prima, è un atteggiamento diverso, di un comportamento, un atteggiamento diverso rispetto ad un comportamento che però è analogo ad altre forze politiche che si posizionano anche diversamente, ecco, dentro l'arco istituzionale, costituzionale. Senti Anna, passando ad un altro tema, perché se guardiamo all'Italia, cosa rimane oggi della politica coloniale? Soprattutto quanto non aver fatto i conti con il nostro passato coloniale o averlo fatto, diciamo, marginalmente, fa sì che oggi le nuove destre riescono, come dicevi tu ora, ad attrarre quell'elettorato e quella parte di popolazione sbandierando il pericolo delle migrazioni senza controllo, giustificando anche così una politica razzista a difesa, diciamo, dei sacri confini della nazione e quindi della razza bianca. Sicuramente il problema della mancata elaborazione del passato coloniale è qualcosa che pesa inevitabilmente sul dibattito, sul discorso intorno al razzismo e anche sul discorso antirazzista, sul discorso delle destre e anche sul discorso delle sinistre. In fondo gli italiani sono stati... La gran parte degli italiani ha sostenuto Mussolini, la gran parte degli italiani non si è stranita delle leggi razziali. Questa cosa poi alla fine con la liberazione questa cosa è venuta un po' meno. C'è stata molta fretta di rimettere a posto le cose, è stato messo tutto sotto al tappeto. È chiaro che questa cosa ha prodotto un vuoto di conoscenza con delle conseguenze, con gravi conseguenze. È anche vero che però negli ultimi tempi si sta facendo... Ci sono alcuni, soprattutto giovani storici, che stanno portando avanti un lavoro di ricostruzione, riportano l'attenzione su anche gli orrori del fascismo. Il colonialismo fascista è stato particolarmente violento. È stato di recente tradotto in inglese il libro di Angelo Del Boca, Italiani brava gente, e il titolo è significativo, il titolo, che è As cruel as anyone o qualcosa del genere, cioè crudeli come nessuno. Il razzismo italiano, il colonialismo italiano ha assunto delle punte di atrocità e di violenza razzista veramente gravi, veramente importanti, appunto che da fare invidia al sistema delle piantagioni e sicuramente ai campi di concentramento nazisti. Quindi c'è sicuramente questo problema. C'è un ritorno d'attenzione su questi temi finalmente, e bisogna capire che cosa ce ne facciamo però di questo ritorno d'attenzione, perché è sicuramente importante fare un lavoro di tipo storiografico, ma è altrettanto importante fare un lavoro di tipo politico su queste dinamiche, perché poi tanto del razzismo cavalcato oggi dalle destre, che riempie i comportamenti e le bocche di buona parte della società italiana in modo esplicito, e in modo esplicito di un'altra parte, perché altrimenti non avrebbe senso dire che gli italiani sono razzisti. Gli italiani razzisti non sono soltanto quelli che hanno votato per il governo Meloni, cioè che hanno votato le forze politiche che poi hanno composto il governo Meloni. Nel discorso che provo a fare, quelli che hanno votato le forze politiche che sostengono il governo Meloni sono esplicitamente razzisti. Gli altri sono comunque razzisti, implicitamente, a volte addirittura cavalcano un antirazzismo umanitario buonista che gli permette di lavarsi la coscienza, un po' come chi ha votato Obama negli Stati Uniti nel 2008, era un modo per sentirsi antirazzisti, anche se poi viveva in contesti territoriali in cui di fatto ancora c'è la segregazione, perché non è... sostenuta da un sistema di norme, ma nei paesi del sud degli Stati Uniti ancora c'è una segregazione di fatto, perché tu stai in alcune zone delle città che sono zone bianche dove non vedi neri e viceversa, no? Quindi comunque votare Obama per questa gente voleva dire sentirsi antirazzisti. Per alcune persone in Italia un certo antirazzismo umanitario buonista che produce la vittima e invece e permette quindi all'italiano o all'italiana bianca occidentale di aiutare, quindi riproducendo, no, un sistema di gerarchie, è anche un modo di essere razzista, non esplicito, non urlato come quello delle destre, ma ugualmente razzista. Quindi non so da dove eravamo partiti, perché mi sto continuando a perdere nei miei discorsi. No, era il discorso. No, ma è chiaro tutto quello che hai detto. Anzi, leggendo poi il tuo libro, dici che non affrontare ho dedotto leggendo il tuo libro, che non affrontando il nostro passato postcoloniale e razzista, soprattutto negli ultimi anni, può essere perché la destra, ma anche un mondo, diciamo, politico di centrosinistra ha contrastato con forza questi studi e questo sguardo postcoloniale. Se noi ritorniamo indietro per capire l'origine di questa rimozione, se noi torniamo indietro al periodo della liberazione, è chiaro che la riorganizzazione anche culturale del discorso che è stata fatta a partire da lì è tutta di, non lo so, centrosinistra, cattolico, comunque dentro uno spettro democratico, no? E quindi è chiaro che c'è anche una responsabilità di quel tipo. Forse c'è più di una piccola responsabilità. Senti, Anna, noi qui abbiamo uno scopo, cioè quella di far tramontare questo mito della destra sociale anticapitalista. Siamo convinti che, usando, diciamo, anche un'espressione un po' tra virgolette violenta, che i fascisti rimangono i cani da guardia del capitale e dello sviluppo capitalistico. Però d'altro canto la loro propaganda va in senso contrario e il loro elettorato pensa tutto quello che hanno fatto contro le banche quando erano all'opposizione. Poi quando si trovano a governare vanno a braccetto con il capitalismo finanziario più spietato, poi, che dovrebbe essere quello che è contro anche quello che dicono loro e per quello che si fanno votare. Come riescono a fare accettare questa contraddizione al loro elettorato? Non lo so. Non lo so, io ti posso dire che secondo me anche l'elettorato di destra è un elettorato molto instabile. Adesso ci sono state le elezioni regionali qui in Emilia-Romagna e i partiti di destra, ha vinto la sinistra, c'è stata un'astensione pazzesca. Secondo me molta dell'astensione questa volta è stata presa a destra, mentre di solito l'astensione è un comportamento di una sinistra delusa da una rappresentanza istituzionale a sinistra che non è più sinistra. Io mi permetto di leggere, rispetto almeno al contesto così territoriale che vivo, perché io vivo a Bologna, di leggere la grande astensione su Bologna come una delusione della destra. Però attenzione, perché il problema è che chi non è andato a votare è più razzista del governo, chi non è andato a votare è deluso dalle politiche di mediazione che il governo comunque, no, deve mantenere. Cioè Giorgia Meloni all'opposizione era molto più barricadera, adesso non riesce a perdere il suo atteggiamento, quell'aggressività, no? Però cerca parole di mediazione, fa politiche che sono politiche anche in Europa, che sono politiche di equilibrismo, eccetera, eccetera. Adesso con la storia Orban si può permettere di dire io lo faccio venire, come si chiama? Netanyahu. Lo invito. Meloni c'è quello sconsiderato di Salvini, però Salvini, cioè, se vogliamo vedere il consenso politico della Lega, sta andando a picco a prezzo alle idiozie di Salvini, no? E tanta gente in Emilia Romagna non ha votato perché Salvini è impresentabile e quindi non sono andati proprio a votare. Quindi non è, come dire, non è una considerazione positiva, perché chi non va a votare non è che è più buono o è meno reazionario di chi è al governo. Però ecco, queste appunto sono considerazioni molto così in libertà, di una libera pensatrice senza nessun appiglio più significativo. Senti Anna, noi in queste, diciamo, prime quattro interviste, nemmeno a farla apposta, è venuto fuori un nome, che è quello di Musk. Noi, in questa intervista con te lo facciamo noi, a farlo venire fuori questo nome. Secondo te, come cambierà di più la comunicazione, diciamo, dei social o dei media su temi razzisti e autoritari, considerato comunque che Musk sarà un attore protagonista del prossimo governo Trump? Non lo so, nel senso che il ruolo che Musk svolge dal punto di vista della comunicazione è significativo, è assolutamente significativo. Le sue prese di posizione le abbiamo viste rispetto ai giudici italiani. I sostenitori di Trump sono persone non di quella destra esplicitamente razzista, ci sarà una recrudescenza di discorso razzista. Però attenzione, perché in Italia, almeno in Italia, perché è il contesto che conosco, dicevo qualcosa prima della Francia, che è un contesto su cui mi sono informata, in Italia da alcuni anni c'è un protagonismo soggettivo, militante, di quelli che vengono chiamati giovani di seconda generazione, che sono abbastanza incazzati, hanno buoni strumenti discorsivi, organizzativi a disposizione e rappresentano, no, uno spazio di possibilità esplicitamente antagonista al discorso di Musk. È chiaro che Musk, ecco, se io proprio dovessi pensare a Musk, però non penserei al problema, a un incremento di razzismo o di discorso razzista con Musk, ma semmai altri discorsi, tutto ciò che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, la conquista di Marte, i rapporti tra macchine e umano, che è un altro problema enorme, no? Che apre questioni etiche molto profonde e complesse. Secondo te, quante, cioè, in questo momento, quanti questi nuovi fascismi, queste nuove destre o le culture capitalistiche hanno, non dico paura, ma almeno un timore che ci possa essere tutto uno strato sociale che potrebbe scardinare oppure resistere a questi processi di dominio, di subordinazione, di violenza che stanno... No, dico, non sono sicura ci sia uno strato sociale quantitativamente importante per scardinare questi rapporti, al di là delle capacità di governo, al di là di quelle che sono, no, le dinamiche elettorali. Il governo Meloni può anche cadere per equilibri politici ed essere rimpiazzato da un governo di centrosinistra anche nel breve tempo, non lo penso, ma potrebbe accadere, cioè non escludo, come dire, è uno scenario che si potrebbe dare. Quello che secondo me non si dà ancora, non si dà ad oggi, è un contesto sociale che sia realmente critico rispetto a certi discorsi di destra e un certo discorso razzista. Appunto, il razzismo di destra e il razzismo di sinistra, uno più esplicito, uno più sommesso, ma è sempre razzismo. Però se andiamo, ecco, per esempio, che ti devo dire, la società che in qualche modo, una società impoverita dal punto di vista economico, depredata dal punto di vista culturale, erosa nell'accesso ai diritti, diritti con le aspettative bloccate da 20 anni è una società esasperata che è, come dire, trova più semplice riconoscersi in un capo forte, ricco, che non tirarsi sulle maniche per rovesciare quel capo forte e ricco. Sono un po', la vedo così, ma non per essere necessariamente pessimista, ma perché la situazione mi pare non è, come dire, non c'è da star fermi, ma c'è da fare, c'è molto lavoro da fare, ecco. Ed è un lavoro di tipo culturale, ma è anche un lavoro di tipo di redistribuzione della ricchezza, di nuovi discorsi sui diritti, di nuove possibilità. Cioè, questo paese non investe in innovazione e ricerca da 30 anni. È un paese che attrae lavoro o dequalificato o comunque lavoro che poi si inserisce nel mercato del lavoro come lavoro dequalificato e esporta cervelli, ma ormai da decenni. Cioè, è una situazione, no, veramente incancrenita. Io credo che il soggetto potenzialmente più conflittuale, antagonista oggi, ripeto, sono le cosiddette seconde generazioni. L'esperienza che ho fatto io nella logistica sono state molto importanti fino a un certo punto, poi è mancata la volontà politica, sindacale, di fare un salto di qualità e di fare di quelle lotte che avevano individuato nel sistema delle cooperative, che gestisce non soltanto i magazzini, ma nel territorio dell'Emilia Romagna gestisce anche le cooperative sociali, il sistema di portierato in tutti i palazzi governativi, nelle università, eccetera, tutti gestiti da un analogo sistema. Il sindacato di base, che seguiva le lotte nei magazzini e la logistica, ha scelto una via vertenziale, cioè rivendichiamo le lotte dentro i magazzini, piuttosto che la via politica di una lotta che tenesse insieme quelle soggettività che si erano ritrovate davanti ai picchetti, quindi gli studenti, i lavoratori delle cooperative, ed erano appunto soggetti anche dal punto di vista delle gerarchie, della razza e del posizionamento razziale molto diverse dal punto di vista generazionale, diverse dal punto di vista dei percorsi. Bisogna costruire lotte insieme. Io, quando partecipavo, ho seguito le lotte della logistica con i picchetti, nelle assemblee, nei momenti di manifestazione, perché credevo che quella lotta fosse la possibilità di cambiare un sistema di precarizzazione del lavoro che riguardava anche me, non come, e ho imparato tantissimo dal punto di vista del discorso, delle pratiche, delle modalità di lotta, no? Dopo, nonostante avessi alle spalle 30 anni di militanza onoratamente vissuti, eppure nell'interazione con soggettività, con background molto diversi dai miei, io ho avuto modo di imparare, di capire e di vedere le cose. Quindi è questo l'atteggiamento che dobbiamo assumere, costruire percorsi di lotta antirazzista in comuni, costruire un antirazzismo politico che è inevitabilmente critico rispetto al modo di produzione capitalistico e che tiene insieme soggetti diversi. Altrimenti, se io da bianca vado ad aiutare i poveri migranti, mi sto lavando la coscienza.